soltanto questi due canali. È una radio vecchissima, però va sempre bene. Aspetta, no, qua ti sento benissimo. Questa è la più giovane che ho di radio, 2 mesi già. Sta già parecchio, io più di 3 case in casa, immaginate, perché tanto i rani come anche oggi, a parecchi rani fatti a mobile, tutti canti, vedo, villaggio lui, che si ripongo mi fate, puro la sveglia mi fate, hanno la sveglia. No, anche io ce l'ho a parecchi più vecchi. Uno degli anni 70, l'altro degli anni 80. Io ce l'ho anch'io a parecchi così. Questo invece è il più nuovo, c'ha 2 mesi di vita. Ma io sempre chiesti, mai avvisti, mai controllati, valvolare. Ah no, vennaggio uno, capo di 3 canali, USB e SSB. L'altro ha orologio incorporato, che le coso è incorporato va a 220 di corrente, assorbimento, con quello, fenomeno incorporato, non va l'alimentatore a parte. E l'altro è mantenuto 23 canali e 24 alfa, però non va né SSB né SSB, il sicuro è a 220. Esci incorporato, a mobile, avanti chiamare. E dici che non fa, sono fissabile, chi si fa, chi si rabbatte, sono stabile, sono messo in alimentazione, capito? Sono fatta appoggia, vai, e basta, vai, lui, basta. E alle 4 usine, sono perfetti, e per cui avanti. Mentre con l'alimentatore può variare, non è mai stabile la radio, perché lì sono più stabile qui, sono fatta apposta a Baiti, vabbè, poi c'è 23 canali andare prevesse a Baiti, per cui tranquilla Panisco, tranquilla per ok, riprende altro. Stamattina è molto bello, il link HM550, nuovo tipo, va bene, non va parecchio. Sì. Ok, grazie, rimane con chi perché tanto ci sentiamo, alla prossima, Mario riprendi, io chiedo che c'è tutta gente, ok? Ok, ciao, io Mario. Sì, entra da Torino, me lo saluti. Se sei tornato lì, però mi pare che sia impossibile tu che tornate lì, pare più di me. È tutto. Va bene. Saluto anche io, a tu. Grazie della chiacchierata. Che anche sentiamo alle prossime. Salutami in casa. Ciao Giovanni anche a te Mario. State chiudendo, quindi anche io. Rimango in ascolto, vediamo un po' se c'è qualcuno nel canale. Cioè, ci sentiamo alle prossime. Ciao, alle prossime. Lavoro alla fiera, pensata, dice all'improvviso. Ma seguo te dove nota, forza a me, tu che ti prendi questa macchina a mettare. Potrebbe guardare un pratico di pettina del fianco, ma c'è qualche macchina che fa la qua e la casina. Cavallo pazzo! Cavallo pazzo! più atteso. Mi pare che mai avuto. Se vedete che ha quattro canali, tutti noi adoro. Se ci chiede droghe, se no? Poi fanno. Passi in mezzo. Faccio la festa, sal. Ciao, facciamo. Mi avvio a collina, se. Non vuoi vedere la collina? Ah, forse arriviamo, se non mi va via. Muovi. Non la proprio. Non fa via da corri. Tutti mandi abbiamo fatto, è un po' cazzo, no, frio, frio, frio. Sì, a cosa? Come cosa? Porco giovane. C'è un dente in pizza, quando sono andato a motocicletta, cioè, non ho cazzo più. Porco giovane. E poi ha detto per l'idea, lui sta lì, ancora in tosse. Poi, occhia così, è già bello. Bello, tanto una caccia via zero gradi, capellini. Questo non va bene, il nostro si tiene vivo. Ah, rotolo. Però là, sotto vuole nam, ma per lo mi ricordo, se avete sentito a me, no? Sì. Bella, bella, bella, questa montagnana. Non riesce. Ma bella, bella femmina, sì. Ma con voi, vedete?